confusione. Non è tanto per paura, ma perché non ne vale la pena. Vieni che è meglio che stia zitti perché tutti ci possano sentire. Il tuo televisore, passami il tuo giornale che mi spazza un naso che è un poco raffreddore, ma no che non è niente, casomai chiamiamo un medico, un astrologo, guarda se c'è in giro il dottore. Dica se arrivo domani, se ritrovo la vista.